arriva. Ridete, sì. Ridete, ridete. Ma ride ben. Chi ride è ultimo. Dite quel che volete, ma io sono un uomo proprio riuscito. Fantazzo! Sì, mi dica. Vabbè, d'accordo, riuscito no. Ma diciamo almeno che sono fortunato. Che cosa mi manca? Io ho tutto. Ho una stupenda casa a Recuo Canone. In fondino un telecomando a 99 canali. Una figlia meravigliosa. Meravigliosa. E una moglie fedele. Io sono il più felice di tutti. Ho voglia di giocare, spostati Mariangela. Sono fortunatissimo. Chissà se guadagnerete 2 punti per la vostra patente, davvero rocker oppure no? Sì, lo guadagnerete, scusate, c'è Frick che fa lo scemo e non posso farci niente. Lo guadagnerete se avete azzeccato la risposta. Quest'oggi parlavamo del padre di Carlos Santana, José. Era musicista, ma cosa suonava? Ipotesi A, il violino mariachi. Ai ai ai ai ai ai ai. Lei non sta attento, è sicuro di quello che sta dicendo? La risposta è... Sì, era un violinista mariachi. No, ma stavo facendo un brano mariachi. Ai ai ai ai ai ai ai. Va bene. Quindi non era un chitarrista classico e non era l'addetto al triangolo dell'orchestra comunale della città. E non era neppure un suonatore di campanello. No, no. Lei sa che suonò molti anni. Che? Al campanello del conservatorio, ma non gli hanno mai aperto. Grazie. No, questa la togliamo in sede di mixaggio. Vabbè, chiedo scusa. Se avete indovinato, perseverate. Se altri avete sbagliato, 2 punticini. Se avete sbagliato, perseverate ancora di più, con maggior accanimento. Bravi. Thank you. Black Magic Woman, targata Carlos Santana. Buona giornata a tutti voi. No, leggevo in diretta qualcuno che ci dà dei vecchi Trapani. Vecchi Trapani, questa canzone è del grandissimo Peter Green. Santana l'ha solo peggiorata, Mancino Max. Vabbè, era solo un modo per ricordare Santana, visto che l'avevamo citato nel test attitudinale di quest'oggi. Giovedì 8 novembre 2007, più delirante del solito. Non riesco a capacitarmi di quanto giorno dopo giorno questo spazio radiofonico diventi sempre più delirante. Quest'oggi il nostro numero di SMS è messo a durissima prova dalle quintalate di SMS che arrivano al 335 100 7777. Gli ultimi centinaia di messaggi sono tutti dedicati appunto alla notizia che ho dato prima di questi omicidi avvenuti in Finlandia per mano di un pazzo scatenato. Insomma, ci siamo capiti, ragazzi, siamo tutti sulla stessa barca. L'unico, il più carino di tutti tra tanti, è quello di Pietro, che dice: allora, commentavo il fatto che la notizia viene data ovviamente specificando che il ragazzo ascoltasse un certo tipo di musica, e Pietro commenta: stavo pensando, siamo talmente tanti ad ascoltare Rock FM che con 10 cadaveri a testa di media resteremo in pochi in Lombardia. Dai Pietro, va bene, ci siamo capiti. C'è un altro grosso problema che io devo risolvere da un'ora che sto cercando di risolvere, non riesco a pensare ad altro. Stamattina non siamo riusciti a dare i numeri del lotto e qualcuno ci è rimasto male. Io devo chiedere scusa, ma vorrei che mi sgridassero in diretta, finalmente, anziché fare una puntata di complimenti, qualcuno che sgrida pane, burro e rock and roll sarebbe un buon gesto democratico, secondo me, no? Gustiamoci Summertime Blues dei Rush e vediamo che si combina nella diretta di pane, burro e rock and roll. Restate con noi, vi tiriamo per le orecchie fino alle 9. Summertime. Rush, allora spieghiamo il problema. Voi che ascoltate a quest'ora probabilmente non lo sapete, ma il martedì e il giovedì solitamente diamo dei numeri del lotto, vengono dati da un tabaccaio milanese qui vicino alla stazione centrale. Questa mattina non abbiamo dato i numeri perché abbiamo mandato in onda un'altra telefonata. La nostra radioascoltatrice Carla ci è rimasta parecchio male. Buongiorno signora Carla. Buongiorno a voi. Benvenuta a Rock FM, tutto bene? Sì, sono un po' arrabbiata. Allora, perché sì? io sto sempre qui a sentirvi. Sì. E continuate a parlare come tanti deficienti e non date i numeri. Ha ragione, signora. Il problema è che c'era un'altra telefonata e ho mandato quella lì. Sì, vabbè. Ma era qua anche mio marito a aspettare i numeri. Ma no. Ha detto, spegnila, non chiamano Carlo stamattina. Ma no, a me guardi, signora. E difatti, guardi, è successo. Siamo veramente desolati. Volevo chiederle scusa in diretta perché mi dispiace. Però so che Carlo glieli ha dati lo stesso i numeri oggi. Sì, e poi ve ne regalo io due. Allora ce li regali, signora. No, prima do quelli di Carlo. Va bene, dica. Ok. 28 il tabaccaio. Sì. 24 la portiera, che è lei, che sono io, sì. E l'11 che siete voi. Esatto. Tra l'altro, mi scusi, so che lei si arrabbia tantissimo anche perché noi questi numeri li giochiamo una volta sola. Certo. È sbagliato, eh? Bisogna giocarli. Ma lei prenderli. Gli altri li aveva giocati? Allora, io li ho giocati fino al primo di novembre. E dopodiché? Ho sbagliato a prendere sulla busta. No. Mi sono rimasti a casa, mi è venuto un nervoso. Quindi quel lambo che avevamo. Ma lambo lì l'ho perso. No, anche lei. Che delusione, mannaggia. L'ha preso Carlo. Carlo, no, anche lui non l'ha preso. O l'ha preso e non ce no, lo voleva. No, l'ha preso Carlo. Ha detto che l'ha preso. Questo è uno scoop, lui l'ha preso e non ce l'ha detto perché non vuole dividere i soldi. Non lo so cosa ha puntato perché lui sai che punta poco. Lui va alterno. Non si fa così, signora, vero? Comunque io l'ho perso proprio da deficiente. Mannaggia, no? Sì, sì. Senta, ma ha dei numeri freschi per quest'oggi? Adesso io ti do un numero da giocare a Cagliari. Me lo sai. Perché Cagliari? Perché io sono Carla. Ah. Giusto? Giusto, lo dice lei, sì. Sì. Carla Cagliari. Allora, gioca. Sì. 10. Me lo segno, 10. E 45. 10 e 45, su Cagliari. Io do solo un nambo. Vediamo chi escono prima, se quelli di Carlo o i miei. Senta, posso giocarlo una volta sola o no? No, bisogna giocarlo almeno tre volte. Almeno tre volte. Signora Carla, guardi, lei è talmente simpatica che posso chiederle una cosa? Cosa? A me piacerebbe se li desse lei i numeri. Come li do io? Cioè, se il martedì e il giovedì o una volta... No, lasciamoci la caduta, che è più bravo di però me. Però mi promette che continua ad ascoltare anche se parliamo come dei deficienti. Vi ascolto, ma... sempre con quali dittate. Di. Siete dei rompi. Ma la musica le piace? Mi piace, però io... Sì? Sto qui apposta. Ma... aspettarsi. Quindi fondamentalmente anche lei è rock. Sì, mi piacciono, ma io ho solo questi orari da sentire. Ho capito. Dopo non c'ho più tempo. Ho capito. Signora, devo andare a lavorare. Signora Carla, mi scusi ancora per non aver dato i numeri, abbiamo però posto rimedio. Grazie mille. Buon lavoro. Comunque, se sbagliate ancora, vi sgrido ancora. Arrivederci. Salve, buongiorno. Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between his knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. To walk on, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. But Jack say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Oh yeah, I say life goes on long after the thrill of living is gone. Kids doing best they can. Mio caro Frick, com'è come non è, arriviamo anche quest'oggi all'appuntamento con lo sguardo di Rock FM sul mondo. Che è un bel colpo di scena, io ripeto spesso questa espressione, ma credo che nel caso specifico ci sia da dirlo, finalmente un collegamento internazionale. Anche quest'oggi tenteremo di connetterci con Tokyo nella speranza sincera che non accada nulla. Tokyo. Almeno per quest'oggi. Almeno per quest'oggi, ma Tokyo dall'altra parte del mondo, del pianeta, del globo. Esattamente quello. Vediamo cosa ci faranno ascoltare quest'oggi. Pronto, Tokyo! Ah, welcome! Welcome! Ah, che bel saluto, marziale direi. Buongiorno! Buongiorno, sto paro di scimitare! No, insomma, cerchiamo... Ma non iniziamo con Kakyo Radio Tokyo! Era... sì, eravamo solo... Buongiorno, un paio di katana! No, lei è un po' arrabbiato. Chi è? Mi scusi, si presenti. Io, Garavura-san! Garavura-san, ah, buongiorno, parliamo. Qui Rock FM. Piacere, Frick Antoni. E il DJ Ariele. Oh, DJ Ariele di mio kimono. No, ma lei è un po' arrabbiato quest'oggi. Vuoi fare cose buone brutte? Cambierò io a Tokyo. No, ma noi vorremmo solo ascoltare un brano come di consueto. Niente brani, niente Radio Tokyo. Niente Radio Tokyo. Niente. 10 DJ, Arachiri, ah. Tsunami. Ma allora ci conferma, si sono ammazzati 10 DJ. 10 DJ Arachiri, perché voi dite rock and roll giapponese è schifo. No, mai detta una cosa di questo è tipo. È un equivoco. No, è un equivoco. 10 DJ Arachiri, tsunami e terremoto. No, ho capito, ma lo tsunami e il terremoto noi non c'entravamo niente, Garavura. Voi, DJ Ariele e Frick Antony, voi grossi. Prego? Ho paura di chiedere la traduzione, se la sente. Vuol dire, voi, così, porta rogna! No. Beh, guardi... porta rogna! No, patti chiari, amicizia lunga, guardi, qui rogna non l'abbiamo mai portato a nessuno. Guardi, noi non ce lo meritiamo, sinceramente, non ce lo meritiamo. Non si arrabbi comunque, se vuole non la chiamiamo più. Voi non dovete più... Cacchio Radio Tokyo, non esiste più. Non si disperi. Ma non faccia così anche lei. Aspetti, no, lei si sta sciabolando e un po' se lo merita sto giro. Faccia, no. Faccia pure Garavura. Porta no, rogna. Non porta rogna assolutamente. Si ammazzi come è giusto porta che sia rogna. Ma parliamone un attimo, no, parliamone. Frick, tagliamo la discussione. Porta rogna. Ma crepa, Garavura! È caduta la linea, anche quest'oggi. No. Sempre heavy metal, voglio dire, in musica e senza la musica si tratta di atmosfere pesanti. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19 is something's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. 6 months off. Frigo, come va? Sperimentano roba forte oggi? Tutto bene, Rogna! No, niente di che! Ma guarda, che roba! Ti hanno distrutto il sistema uditivo, maledetti umani! Come? Frigo, tranquillo, mi prenderò cura io di te! Ma cosa dici, Rogna? Non ti sento! Guarda il labiale, Frigo, che cosa ti hanno fatto? Sperimentano tappi per le orecchie per batteristi di nuova generazione! Roba tecnologicissima! Tappi per le orecchie? Sì, vuoi provare? Ma va a cagare, Frigo! Mi hai fatto prendere uno spavento! Dance with me, dance. dreams broken. Come and dance with me. Dance with me into the colors of the dust. Dance with me into the colors of the dust. The paths we're walking on, they crumble behind us. But we leave now, they will never find us. If this crazy world spins itself down dust, I wanna be with you. I'm gonna be with you in the color. Tranquilla per la puntata di oggi. Ben Harper, novità, legata In The Colors. Che giornata, ragazzi. Ci siamo presi pure la lavata di capo dalla signora Carla. E vabbè, è andata così. Chiudiamo la 125, sigla! Sabato mi trovate all'Alcatraz di Milano. Riduzioni qui in portineria, non da Carla, qui da Lillo, il portinaio, via Locatelli 1, 20124 Milano. Pane, burro e rock and roll. Noi ci si risente domani dalle 7 alle 9. La tua colazione rock. Ovviamente sulla vostra radio rock preferita. Pane, burro e rock and roll. L'unica in circolazione, Rock FM. 24 ore su 24. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ringrazio sentitamente tutti gli amici e le amiche che hanno inviato un messaggio con qualsiasi cosa scritto sopra al nostro numero, e saluto il buon Marco Garavelli. Buona giornata. Buona giornata. Ti affido i radioascoltatori, quest'oggi li ho trattati malissimo, quindi guarda. Ma sarò buono con loro, come sempre. Con del buon rock and roll. Bueno. Ci vediamo domani. No? Yes. Sempre ciao, qui, ciao. Ciao. Ciao.